Ora 21:30 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa inizia Disorder. E lo facciamo anche oggi che è il 20 dicembre del 2021. Spazio che andrà avanti sino alle 23 circa. Prima di iniziare, rapidissimi saluti a Maya in Sardegna, al pari di Nicola Locci di... di Hexagonal. That's the Carlo from Boston, Marco qui a Roma, Alessandria qui a Roma. Marco Milanesio di Disordine, Alberto Clipper di MDMA. Lucia Cagliazza di Lupsi, leggiamo che è alle prese anche con la stesura di un nuovo album che chiaramente spero di sentire presto in questi spazi. Mosquita de Miramar da Harlem in Olanda, Rosa La Vita, Francesco Cornello a Bergamo, Cecilia Miradoli di Pindar, Simone Scalise di Audio Chaos, Dark Wave Calabrese. Tabo Arasa, Enrico Ponzoni di Sokushu Buzzi Project, Valerio Michetti della Grazia Obliqua. Salutiamo anche Ale Trinity Bersiani che insieme al buon Valerio sentiremo anche più tardi con Fade to Grace. A Berlino c'è Mariano Virdia. Stasera inizio come ho fatto la scorsa settimana, andando un po' a conoscere questo fenomeno, diciamo, inusuale in parte per quanto mi riguarda e non solo per me. Sto parlando di Io sono un cane, progetto proveniente dalla Sardegna proprio, che quest'anno ha stampato un album dal nome Ira che ha stupito più di un fruitore appassionato di musica. Quegli appassionati che si dilettano in elettronica, in EDM, in post rock, in ambient. E mi metto fra questi, e quindi ha stupito anche il sottoscritto. A conferma di ciò, è un album che si dipana in due CD e che manderemo per la sua gran parte. E allora, questa sera, ci ascoltiamo Foul e Jabal. Incredibili sono le numerose suggestioni che arricchiscono questo Ira per quanto riguarda Io sono un cane, scorribande elettroniche, poliritmiche, momenti anche di tribalità come la traccia appena terminata, Jabal. Altrove c'è ambient, c'è post rock e ci sono rimandi anche alla tradizione dei Sigur Rós. Un piccolo dunque capolavoro, o quantomeno un album molto interessante tra i più particolari del 2021, a cura di Jacopo Incani, vero nome di Io sono un cane. Questo è il terzo lavoro che viene dopo 6 anni di silenzio. Attraverso la Trova Rubato, un'etichetta bolognese indipendente, associata però anche alla numero uno, la famosissima label che negli anni 70 curò per esempio la carriera della premiata Fornarina Marconi e tanti, diciamo, fenomeni di quell'epoca. Saluto Giulia qui a Roma e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Abbiamo anche la Lucesia, etichetta di Bellinzona, Svizzera, con Neboj Sabacic e Sasha Rovelli. Ottima realtà svizzera, spesso suonata qui, da queste frequenze e in questi spazi. Ancora Italia, loro vengono proprio da queste parti, però si chiamano Bikini Death Race. Alle prese con il secondo lavoro dal nome Refrigerator, che va a riproporre una schioppettante attitudine punk insieme all'elettronica pulsante dei Divo e al synth pop più sghembo e sfasciato. Allora, questa sera è il turno di Hush e Nine, che guarda caso è la traccia numero 9. Say that nothing happened. Dunque, effervescente ritorno per quanto riguarda i Bikini Death Race, trio romano con Panda Guy, Ginger Cat Bad Dogs e Lyman Alpha, pseudonimi di tre musicisti comunque proprio qui di Roma. Andiamo avanti. E invece, come un fulmine a ciel sereno, esce anche un album per quanto riguarda i Deutsche Amerikanische Freundschaft, ossia i DAF. Tutti ormai sapranno la scomparsa di Gabby Delgado nel marzo del 2020, quindi chiaramente le sorti del gruppo sembravano segnate. Ed effettivamente non sappiamo poi la prospettiva che ci riserverà l'unico rimanente, Robert Gorle, che comunque è riuscito a tirare fuori del materiale che già stava valutando negli ultimi tempi insieme a Gabby Delgado, con la differenza che purtroppo quella voce non c'è più, e alla voce si presta proprio Robert Gorle. È un'opera concepita alla fine fondamentalmente da solo. Un album che cita dei ricordi in comune con lo scomparso artista, concerti del passato, situazioni intime della vita proprio dei due. L'album si chiama Nur noch einer. E allora ci ascoltiamo Hinschatten, Kunststoff e Wir sind wild.